Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Posso dire che certamente non tutte le forze dell'ordine sono in malafede, ma con i miei occhi ho visto più volte allo stadio agenti aggredire la gente di propria iniziativa e che a causa loro ho scelto di non andare più allo stadio. Per fare solo un esempio, ho visto con i miei occhi aggredire a manganellate in testa un padre mentre proteggeva con il proprio corpo i suoi due figlioletti durante degli scontri a Siracusa. Di questo episodio esistono dei filmati, se non ricordo male. Ma state certi che queste cose non arrivano nemmeno ai magistrati, salvo casi eccezionali e gravi. Purtroppo in tutte le categorie esistono dei pazzi, anche tra le forze dell'ordine. Ivan. Scrivo per esprimere il mio parere sulle parole del ministro Brunetta, o meglio, sull'idea che si sta diffondendo che le manifestazioni e gli scioperi debbano essere fastidiosi o violenti, altrimenti non sembra si sia contenti. Gli scioperi ultimamente sono in gran parte attuati solo per gli aumenti salariali, mentre magari uno sciopero sulla sicurezza del lavoro sarebbe più apprezzato. Le manifestazioni si svolgono quotidianamente per un qualsiasi tema, anche il più insignificante. Ma il vero problema è la visibilità. Quasi tutti gli scalmanati manifestanti o scioperanti dicono che bisogna bloccare le lezioni universitarie o la linea ferroviaria per avere visibilità. Si potrebbe creare una pagina dei giornali e perché non cominciare dal Sole 24 Ore, dove vengono riportate tutte le manifestazioni o gli scioperi che ne chiedono la pubblicazione. Una sola pagina e non di più. Maggiore è il numero degli scioperi, più piccolo diventa il carattere con cui sono riportati. Si scoprirebbe così che in Italia manifestare dissenso è così diffuso che quel che manca è lo spirito della costruzione. E si scoprirebbe magari che esistono persone che hanno un'occupazione a tempo pieno e, per assurdo, neanche precaria, quella del manifestare. Gianfranco. Io credo non si parli abbastanza degli abusi della polizia in Italia e su come viene gestito l'ordine pubblico. Ogni occasione è buona per manganellare. Io non voglio giustificare i violenti, ma esistono altri modi di gestire le folle. Io vivo a Londra attualmente e la polizia si comporta in maniera molto, molto diversa. Non esistono le cariche indiscriminate. Usano i cavalli, molto efficaci, e sono molto gentili e cordiali. In anni trascorsi negli stadi italiani ho visto tanti ultras che cercavano la violenza, ma credetemi, ho visto tanta polizia menare in maniera selvaggia, senza preoccuparsi di coinvolgere innocenti. Non parliamo poi dei morti misteriosi. Marco. Viva Brunetta! Finalmente in Italia c'è un politico che dice cose sensate, fregandosene del politicamente corretto, e ha ragione da vendere. Secondo me sarebbe il candidato ideale per la successione a Berlusconi. Guglielmo. Io sto con la legalità. Sto col semplice rispetto delle regole, la prima delle quali è non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Sto con la polizia se quando la chiamo perché ne ho bisogno arriva in tempi non biblici. Sto con la polizia quando in TV mi dicono che i reati sono diminuiti perché i poliziotti sono riusciti a risolverne più dell'anno scorso. Però vedo sempre polizia a fare scorte, mai a fare prevenzione. Lo sanno tutti dove ci sono gli spacciatori e i truffatori. Perché i poliziotti non vanno lì? Avranno anche i loro motivi, ma noi non riusciamo a capirli e soprattutto non ne vediamo i risultati. E quando vediamo che caricano, mi dispiace, ma pensiamo che lo facciano soltanto per motivi politici. Giovanni. Laico è chi ritiene di poter e dovere garantire incondizionatamente la propria e l'altrui libertà di scelta e di azione rispetto a chi, invece, ritiene di dover conciliare o sottomettere la propria libertà all'autorità di un'ideologia o di un credo religioso. Difendendo la laicità dello Stato, si intende difendere la libertà di ogni cittadino a esercitare o meno la propria fede o non fede, quindi la libertà di coscienza, mantenendo fermo il concetto che la propria libertà finisce dove comincia quella degli altri. Facendo questo, si difende idealmente anche la mia religione, il cristianesimo, che in altre parti del mondo, dove non è maggioritaria e dove gli stati non sono laici ma teocratici, cioè fondati sul potere di qualche altra religione, viene calpestata o mal tollerata e i cristiani sono spesso oggetto di persecuzioni. Quando una confessione religiosa è maggioritaria, tenta di proporre la propria visione etica come principio laico. Ora, ragionando per assurdo, mi chiedo che cosa accadrebbe se in Italia, ad esempio, la religione dominante non fosse il cattolicesimo, ma, ipotizziamo, i testimoni di Geova, e questi volessero imporre la loro etica allo Stato. Avremmo, per esempio, che le trasfusioni e i trapianti di organi sarebbero perlomeno illegali, se non banditi, o si farebbero clandestinamente. Oppure, cosa potrebbe accadere tra qualche decennio se i cittadini di origine italiana saranno una minoranza e avremo una forte presenza di altre religioni ed etnie, ad esempio islamici e cinesi, la cui cultura e credo religioso sono distanti da noi? Potremmo ancora esercitare liberamente la nostra fede o dovremmo combatterli e cacciarli? È forse quello che sta già succedendo, dove dietro il pretesto per alcuni episodi criminosi si nasconde un forte disagio verso chi è diverso, straniero. L'unica garanzia per tutti i cittadini è il riconoscimento dei diritti civili e tra questi anche la libertà di culto. Lo Stato deve essere laico, casa di tutti, in cui il relativismo etico, a differenza di quello che la Chiesa afferma, è un valore, poiché dentro una società pluralista vi sono necessariamente diverse visioni etiche che derivano appunto da diverse confessioni religiose o ideologiche e devono essere sintetizzate in leggi il più possibile condivise. Marco. Penso sia giusto offrire assistenza medica a tutti indistintamente, compresi gli extracomunitari clandestini. Prima che a loro vantaggio, sarebbe a nostro vantaggio proteggere gli italiani da eventuali infezioni. Non si tratta di razzismo. A Bari, giorni fa, è morta una povera nigeriana che si prostituiva per strada a causa di una forma violenta di tubercolosi. Ora si sta affannosamente cercando di restringere il campo degli infettati. Una soluzione potrebbe essere quella di chiedere ai medici di curare i loro assistiti clandestini, ma nello stesso tempo di provvedere alla rilevazione delle loro impronte digitali. Si otterrebbero così tutti i risultati utili e si metterebbero d'accordo tutte le esigenze. Ugo, Bari. Uffici di Venezia della Banca d'Italia. Un giorno feriale qualsiasi. Le ampie stanze sembrano la continuazione dei negozi di moda di Rialto a Venezia. Lampadari bellissimi, marmi e carabinieri ben armati a proteggerla, insieme con i sistemi elettronici di difesa che invitano a non utilizzare i cellulari. È utilissima la Banca d'Italia. Se qualcuno si è dimenticato a casa delle banconote in lire italiane, le può cambiare in euro solo in Banca d'Italia. Chissà quante altre cose è certamente utile, al controllo di altre banche, che però la possiedono, alla vigilanza su tutti gli attori finanziari, a volte forse intempestiva o inascoltata, insomma, è insostituibile. Sarà perciò che i sindacati di quella banca si oppongono a tagli di personale o accorpamenti di uffici, ma i frequentatori di quegli sportelli, gli utenti che ne hanno davvero bisogno, sono un numero sparuto, insignificante di fronte alla marea di impiegati con la cravatta di ordinanza che stanno al di là degli sportelli, tutti seriamente affaccendati. Ecco, per tutti questi impiegati e per i 3,5 milioni di dipendenti pubblici, che saranno oltre 5 milioni se mettiamo nel conto anche le forze dell'ordine, gli addetti alle più svariate istituzioni e tutti coloro che vivono di politica, per tutti coloro che hanno stipendio e garanzie a vita indipendenti da conti economici, che cosa è cambiato in questa crisi epocale? La crisi per loro è solo argomento su cui discettare, come parlare del più e del meno. Angelo. La questione mutui per le famiglie tempo fa ha dato problemi per il continuo innalzamento dei tassi, mentre ora, con i tassi bassi, è subentrata la crisi economica, che comporta anch'essa la grossa difficoltà a fare fronte agli impegni assunti con le banche. Suggerirei quindi alle autorità legislative competenti di studiare e poi mettere subito in atto la possibilità per i sottoscrittori di mutuo di modificare il contratto fatto con la banca in modo da poter pagare i soli interessi del debito, lasciando la facoltà del pagamento del capitale alle mutabili possibilità del debitore durante un lungo periodo, ad esempio 20 o 30 anni. È ovvio che in caso di cessione dell'immobile per vendita o eredità, il nuovo proprietario si accollerà il debito alle stesse condizioni. Ad esempio, un mutuo acceso per 100.000 euro 2 anni fa, con i versamenti fatti, è ora diventato di 95.000 euro. Su questo importo si pagherà l'interesse per 6 mesi o un anno. Dopodiché, se si è in grado di diminuire la cifra, gli interessi dovuti per i prossimi periodi saranno calcolati su detta cifra e resteranno così fino alla successiva diminuzione. In tal modo la banca incassa gli interessi e resta garantita dall'ipoteca, ma il debitore ha la possibilità di pagare una rata molto minore, in quanto priva del rimborso del capitale, e solo successivamente, in tempi migliori, deciderà di diminuire o addirittura di saldare il suo debito. Credo che alle banche interessi avere anche la quota capitale, ma dati i tempi e solo per i casi di manifesta difficoltà, si potrebbe convincerle in un modo o nell'altro a concedere una simile agevolazione nell'interesse di tutta la collettività. Fabio. Cara Radio 24, sento spesso quando intervengono politici, sindacati oppure anche gente comune chiedere una maggiore incisività nella lotta all'evasione fiscale. Nulla in contrario. 200 miliardi stimati di evasione sono tanti, ma quando si invoca questo si pensa sempre e solo ai lavoratori autonomi. È frustrante passare per la causa di tutti i mali. Faccio parte di una famiglia di commercianti. Il papà è da poco scomparso dopo 65 anni di attività. Con quale colpa noi, impresa familiare, dobbiamo sentirci tirare in causa o additare dal pubblico giudizio come dei furfanti? Per aver lavorato tutti quanti per anni ed anni senza mai un giorno di mutua, senza mai pesare sulle casse statali, senza avere nemmeno uno solo dei vantaggi che hanno i dipendenti pubblici o privati? Una vita di sacrifici per poi sentirsi una sorta di essere ripugnante da mettere alla gogna in piazza. Perché questo succede, anche solo se non viene fatto uno scontrino per un bicchiere d'acqua. Pagare le tasse è giusto, ma il carico fiscale è molto alto. A volte, senza ipocrisia, si cerca di pagare meno per una questione di sopravvivenza. Questo, per l'opinione pubblica, alimentata sapientemente dai media, è un reato da punire con una sorta di lapidazione, mentre invece si ignora o si considera una forma legale di sopravvivenza se il dipendente pubblico o i pensionati lavorano in nero, se i docenti rimandano i ragazzi a settembre proprio per procurarsi le lezioni private, rigorosamente in nero. Già, i pensionati lo fanno per arrotondare, si dice, mentre un commerciante lo fa per avidità, non per sopravvivere. È frustrante davvero. Viene la voglia di smettere, vi assicuro che se molti non lo fanno, è solo per orgoglio oppure per mancanza di alternative. È ora di finirla di demonizzare un tessuto sano, spesso composto da imprese familiari, che costa poco o nulla allo Stato. Ivano, provincia di Piacenza. Caro Ivano, la sua lettera non richiederebbe una risposta. Lei ha illustrato con grande evidenza e passione i problemi del lavoro autonomo, dei piccoli commercianti, degli artigiani spesso additati come i primi responsabili dell'evasione fiscale. E invece sono tutte categorie che in grandissima maggioranza svolgono con serietà il proprio lavoro. È vero, i dati sull'evasione sono impressionanti, ma ha ragione nel sostenere che fino ad ora la maggior parte delle misure per contrastare questo fenomeno hanno anche significato un aggravamento degli oneri amministrativi e delle complicazioni burocratiche. Potrà servire a poco, ma bisogna dire che la vera lotta all'evasione la si può condurre solo se lo Stato risponde con efficienza alla domanda di servizi da parte dei cittadini e se cresce in ciascuno il senso della legalità, insieme a quello della partecipazione. E questo vuol dire che ognuno deve fare il suo dovere, il grande professionista come il piccolo artigiano, magari senza continuare a sostenere che il primo passo devono farlo gli altri. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.